un cuore che non dà, è come un faro spento, battiti ne ha, ma io non li sento, come il ghiaccio dell'Antartide, duro e gelido e non so perché, un cuore che non dà, è solo contro l'universo. Un cuore che non dà, ti fa sentire solo e ti deluderà, ha le ali ma non vola. E rimango qui a ricordare quante volte mi è sembrato amore. Un cuore che non dà è come un arido deserto. Faro spento.